L'aquila, la scrofa e la gatta da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Sulla cima d'un vecchio albero il nido l'aquila aveva. Ai piedi era una scrofa coi cari figli ed una gatta in mezzo. Vivevan da un pezzo le tre madri e i figli in dolce accordo, allor che la maligna gatta con arte insidiosa. «Amica», disse un giorno che andò la sua vicina del terzo piano a visitar, «non vedi come col grifo eternamente scavi le radici dell'albero laggiù sulla sozza bestiaccia? Ahi, morte a noi o almeno ai figli nostri, che è tutt'una per il cor delle madri, essa prepara, perché divelto andrà dalle radici il tronco e condurrà nella rovina i figli nostri, a lei tenero pasto. La lor morte è sicura, e me felice ancor nel mio dolore, ove me resti di tanti un sol a raddolcirmi il pianto». Ciò detto uscì, lasciando alto spavento nella casa dell'aquila. Discende quindi la trista e va dove la scrofa fresca di parto si giaceva coi figli. «Oh, mia buona comare!» in un orecchio le sussurra, «guardatevi, vi supplico, d'uscir di casa, o l'aquila sui figli vostri vi avverto piomberà. Non dite ch'io ve l'ho detto, o quella scellerata farà sopra di me la sua vendetta». Poiché ebbe seminata astutamente nell'altra casa l'odio ed il sospetto, quatta la trista si rinchiude in casa. Da quel giorno nell'aquila il suo nido, nella scrofa la tana osano un solo momento abbandonar, pronte, ostinate alla difesa della cara prole, ossia che questa all'altra una rovina appresti o quella un improvviso assalto. Ai, sciocche entrambe, sprovveduti i figli! Del consueto cibo allor fu primo carnefice la fame. Ad uno li videro morir a far più grasso dei mici il desinar. Della suina ed aquila gente altro che l'ossa più non rimase e poche penne al vento. Non v'è mal che non sappia una maligna lingua con velenosa arte produrre. Di quanti danni scaturir dal vaso di Pandora, per me la furberia tengo il più tristo ed anche il meno indegno, che sempre l'abbia in grande obbrobrio il mondo. Fine della favola. L'aquila, la scrofa e la gatta. Questa registrazione è di dominio pubblico.